e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. A mio giudizio Berlusconi ha esagerato un po' a metterla sul nazionale, sul referendum su di lui, e poi anche con toni un po' eccessivi, a mio modo di vedere. Ancora un buongiorno da parte mia. La voce che avete sentito, direi inconfondibile, è quella di Fedele Confalonieri, il presidente di Mediaset, nel corso dell'intervista realizzata da Mirta Merlino, Effetto Domino per la 7. Questa, diciamo, a metà settimana aveva un po' sintetizzato, peraltro da autorevole fonte e da non solo autorevole ma anche così vicino al Premier, da dare la misura un po' di quello che appariva essere l'andamento del dopovoto. Bene, questa settimana invece si conclude con i titoli che abbiamo letto oggi e la cui sintesi può essere il ritorno allo scontro per i 5 interventi televisivi appunto di ieri sera, la raffica di interventi del Presidente del Consiglio in vista dei ballottaggi che, lo ricordiamo, non riguardano solamente Milano e Napoli, ma di fatto che ancora una volta a Milano si concentra la sfida politica, e anche la frase "non daremo Milano agli estremisti" in qualche modo la sintetizza. Ecco, parleremo naturalmente di politica e sarà l'occasione tra pochissimo per sentire quel confronto a distanza che non sembra poterci non poter essere, perché dopo il faccia a faccia durissimo nelle conclusioni tra Moratti e lo sfidante appunto a Palazzo Marino, non ci sarà più il faccia a faccia. Ripartiamo dunque dalla politica. Milano non sarà più la capitale morale del paese, ma di certo in questi giorni è stata in pieno al centro della sfida tra gli schieramenti. Pisapia davanti al primo turno, Moratti costretta ad inseguire. Alla fine della prossima settimana si torna al voto, ma intanto riepilogo dei temi salienti a cura di Dario Ceccarelli. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano. Eh sì, si fa lontana questa Madunina, ma non solo per Letizia Moratti, costretta a un difficile recupero, ma anche per la Lega, che in vista del ballottaggio si trova al centro di un mal di pancia contagioso, come emerge dalle telefonate a Radio Padania. Ma è Berlusconi, secondo lei, che ha fatto il suo tempo, o è l'alleanza col PDL che ha fatto il suo tempo? È l'alleanza, allora è Berlusconi ed è l'alleanza, ma non mi soddisfava neanche prima, lo digerivo, mi scusi, eh. Messaggio ricevuto, tanto che lo stesso Bossi avverte "non affonderemo col PDL", tante cose infatti non sono piaciute, la Moratti troppo lontana dai quartieri, Berlusconi troppo centrato su se stesso, lo conferma anche Matteo Salvini, l'eurodeputato che ha ricevuto quasi 9.000 preferenze, un pieno strepitoso ma ingombrante per gli altri dirigenti leghisti. Berlusconi ha fatto dei referendum su se stesso, parlando di tribunale, giustizia, processi, intercettazioni, poi sono usciti i manifesti sulle Brigate Rosse, sul passato di Pisapia, e chi se ne frega. Bisogna tornare a parlare di Milano, e un vice sindaco leghista aiuta, come ha ricordato ieri sera la Moratti lo stesso Salvini. Anche Davide Boni, presidente leghista del Consiglio regionale, va al sodo. Perché dobbiamo giocare questi tempi supplementari, devono essere fortemente impegnati sui problemi reali della città. Insomma, fronte compatto. Gli altri nodi, comunque vada, a partita chiusa. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra Letizia Moratti e Giuliano Pisapia non ci saranno più confronti televisivi dopo quello dell'11 maggio scorso, finito in rissa dopo l'attacco sul piano personale del sindaco di Milano al suo sfidante. Attraverso il suo portavoce, Pisapia ha annunciato che la sua campagna elettorale sarà tutta giocata tra i cittadini, non prevede dunque ulteriori passaggi nei salotti televisivi o nei talk show. Daniele Biacchessi però li ha fatti incontrare qui a Radio 24. Letizia Moratti contro Giuliano Pisapia. Questa è la notizia politica della settimana dopo la tornata elettorale amministrativa di Milano, che ha visto prevalere di 6 punti Pisapia, candidato del centro-sinistra di Milano. Ora si attende il verdetto finale del ballottaggio che si terrà 29 e 30 maggio. A meno di ripensamenti non si terrà il faccia a faccia televisivo tra Moratti e Pisapia. Dunque abbiamo pensato di metterli a confronto su alcuni punti del loro programma attraverso le domande di Simone Spezia alla Moratti e di Raffaella Calandra a Giuliano Pisapia. Il primo punto riguarda il centro multiculturale, ovvero la moschea di Milano. Il tema del terrorismo internazionale è un tema particolarmente sentito. Beh, io direi che questo, secondo me, è un punto sul quale stare attenti, perché per fortuna, con questi piccoli luoghi di culto, a Milano il terrorismo, l'allarme terrorismo, siamo riusciti a gestirlo. Non noi come comune, ma il governo attraverso è riuscito a gestirlo. Ma siamo sicuri che una grande moschea in un momento come questo non attiri qua da tutta Italia ovviamente islamici che moderati non sono? Innanzitutto ho sentito che Bossi, ancora una volta dimostrando forse la poca lucidità, non sua ma dell'intero centrodestra, ha subito dopo ritrattato quello che aveva detto e che era registrato. Dall'altro vuol dire che ha così ancora una volta pensato di continuare con l'offesa, solo che non ha offeso solo me, ma ha offeso gli oltre 300.000 elettori. Mi accusano di dover prevedere una struttura multiculturale e multietnica, dicendo che questo comporterebbe zingaropoli a Milano. Allora, a parte che uno dovrebbe pensare, visto quello che ha detto immediatamente prima, quanta credibilità può avere. In secondo luogo, forse Bossi non sa che il centro multiculturale è già previsto dal piano del governo del territorio approvato dal centrodestra. Il secondo punto del programma concerne la lotta allo smog e la misura dell'EcoPass. Siamo in una congiuntura economica attuale che è particolarmente difficile e dura. Abbiamo ritenuto che gli effetti positivi di EcoPass ci sono e devono essere mantenuti, quindi EcoPass rimane, ma abbiamo ritenuto di sgravare i cittadini milanesi dal costo di EcoPass. I proventi che continueremo ad avere da chi viene da fuori città li indirizzeremo verso incentivi per il ricambio delle caldaie. In un momento difficile il programma di Pisapia è la congestion charge, una tassa su tutti i veicoli, tutti, inquinanti e non inquinanti, una tassa che arriva a 10 euro. Mi sembra una promessa elettorale data alla Lega, che chiede questa nuova modalità di EcoPass, perché non è una cancellazione, senza nessuna valutazione dell'impatto effettivo di questa scelta, se non quella di una scelta strumentale propagandistica, ma in contraddizione con se stessa, con quello che ha scritto non più tardi di un mese e mezzo fa nel libro mandato a tutti i milanesi, e soprattutto con quello che ha detto rispetto alla sua partecipazione e all'essere favorevole ai referendum. Vuol dire che non lo è. Noi terremo conto dei cittadini e anche della commissione, seppur istituita dalla Moratti, perché se sono saggi veri danno delle risposte nell'interesse non di una parte ma nell'interesse della città. La terza domanda riguarda il rilancio dell'immagine di Milano a livello internazionale e soprattutto il ruolo della cultura. In questi anni noi abbiamo aperto tantissimi nuovi luoghi di cultura. Abbiamo aperto a Palazzo Morando il Museo della Moda, abbiamo aperto in triennale il Museo del Design, che è stato definito dal Financial Times il museo del design più innovativo del mondo, abbiamo aperto il Museo del Novecento che dal New York Times è stato indicato come uno dei luoghi che ha fatto vedere Milano come la quinta meta al mondo su 41 dove venire da parte dei turisti. Poi abbiamo aperto la Casa del Fumetto riqualificando un vecchio deposito ATM e ricordo che il fumetto è considerata la nona arte. Abbiamo aperto la Fabbrica del Vapore, che è un luogo di creatività, uno spazio molto grande, di 3.000 metri quadrati di spazio espositivo più laboratori. La Consulta, anche questo come organo di garanzia per l'internazionalizzazione del sistema Milano, cioè Milano deve aprirsi all'esterno, Milano deve ritornare adesso una città internazionale, noi vogliamo un soggetto autonomo, indipendente, che abbiamo denominato Consulta, e che è importante che abbia un rapporto continuo tra le realtà internazionali. Il punto più controverso riguarda certamente la lotta alle infiltrazioni della mafia a Milano, in particolare nel sistema degli appalti dell'Expo. Dire che il comune può avere competenze sulla mafia è dire una falsità, perché io ho chiesto, ho avuto una lettera dalla prefettura, quindi prima mi sono informata, ho chiesto, la prefettura ovviamente rappresenta gli interni che hanno la competenza sulla sicurezza, mi è stato detto non fate la commissione antimafia perché non ha senso, non avrebbe competenze. Allora, rispetto a questo, io da subito avevo chiesto e ottenuto da parte del governo di avere una sezione specializzata sul controllo degli appalti qua a Milano e una sezione, si chiama GICEX, una sezione interforze per fare tutti i controlli che devono fare. Ho chiesto di più e il governo l'ha dato, ho chiesto di avere una lista bianca di aziende che non hanno nessun tipo di possibile vicinanza alla mafia e di poter avere l'estensione ai controlli non solo sugli appalti ma anche sui subappalti, perché è là ovviamente dove si annidano, come dire, i rischi mafia. Sulla commissione antimafia sarà decisa e approvata dal Consiglio Comunale, quindi direi che è un'istituzione del Consiglio Comunale. Il problema è di creare insieme alla Commissione Antimafia tutto un insieme di persone, di rapporti con le varie istituzioni che si occupano del tema, dalla Questura alla Prefettura al mondo delle imprese, su quello specifico tema. È un istituto del Consiglio Comunale, non è della Giunta. Mi sembra che questo sia sempre stato in passato e credo che dobbiamo ricordarci, soprattutto a fare riferimento alla Commissione Antimafia presieduta dal professor Smoraglia, che è quella che più ha contribuito allora, quando il timore delle infiltrazioni mafiose era solo un timore. Oggi dovrà avere più forza, più poteri, soprattutto potere di verifica e di controllo. Ma è chiaramente una questione che riguarda il Consiglio Comunale, mi sembra giusto che sia decisa il Consiglio Comunale, e anche se chiaramente fa parte del programma della nostra coalizione, la decisione della impostazione sarà del Consiglio Comunale. Infine, la campagna elettorale di Letizia Moratti punta sul tema della sicurezza. Ci batteremo perché ci sia sempre più sicurezza in città, però in questi anni, attraverso un lavoro che è stato l'aumento delle telecamere di videosorveglianza, che è stato il lavoro sulle ordinanze contro la prostituzione, contro la droga, che hanno dato ottimi risultati, con un lavoro di illuminazione della città, perché la sicurezza è anche l'illuminazione della città. Bene, tutto questo insieme ci ha portato ad avere il 48% in meno dei reati. E Giuliano Pisapia si batte per dare la massima trasparenza della macchina del Comune di Milano. La trasparenza credo che è sempre stato un punto di partenza del nostro programma elettorale, è un tema su cui puntiamo moltissimo e che poi questo coincida anche col programma del Movimento 5 Stelle, non può che farmi piacere. Chiaramente non è un messaggio specifico, ma chiaramente è una visione importante di un'amministrazione che vuole avere essere aperta. Due programmi a confronto per una grande sfida politica nazionale. Grazie a Daniele Biachesi, che ha curato questa intervista doppia sui programmi, a Simone Spezia e Raffaella Calandra, che hanno raccolto le risposte dei candidati. Ritorno di Israele ai confini del 1967. Passa anche per la soluzione della tragedia palestinese, la costruzione del nuovo Medio Oriente secondo Barack Obama. Lo ha detto giovedì il presidente degli Stati Uniti in un passaggio del suo secondo discorso al mondo arabo. Due anni fa aveva parlato al Cairo, questa volta invece all'interno proprio della sua capitale, da Washington, un lungo intervento che il presidente ha tenuto alle 11:30 ora americana, appunto, di giovedì. Il presidente, pensate, è arrivato all'appuntamento con oltre mezz'ora di ritardo e intorno a questo ritardo c'è stato un vero e proprio fiorire di ipotesi legate alla stesura del testo definitivo, al passaggio chiave quello appunto indicato per riportare i confini dello Stato di Israele, quindi della Palestina dall'altra parte, a quelli fissati prima del conflitto del 1967. Ma ecco, sull'intervento, sui temi toccati dal presidente degli Stati Uniti, vi faccio risentire un brano, un passaggio dell'appuntamento che ogni giorno dal lunedì al venerdì il nostro Mario Platero ci porta in diretta dagli Stati Uniti. We do not want a democratic Egypt to be saddled by the debts of its past. So we will relieve a democratic Egypt of up to $1 billion in debt and work with our Egyptian partners to invest these resources to foster growth and entrepreneurship. Gli aiuti economici, li avete sentiti, sono molto concreti. All'Egitto $1 miliardo in cancellazione del debito, $1 miliardo in garanzie per l'emissione di nuovi prestiti sui mercati internazionali, $1 miliardo è andato al re Abdallah di Giordania, che anche lui procede con le riforme, riforme che sono apprezzate dagli Stati Uniti, e altri fondi andranno alla Tunisia. Questo è un modello iniziale che poggia su 4 pilastri, che sono poi i pilastri anche dell'aiuto a scegliere gli investimenti, quelli per creare occupazione, quelli per formare un management e una classe dirigente che siano allineati col mondo moderno. C'è per esempio un progetto per moltiplicare, per aumentare i commerci. Dunque c'è molto da fare per questa regione e questo è un progetto straordinariamente interessante soprattutto per noi in Italia, in Europa, perché il Nord Africa si affaccia davanti alle nostre sponde e dunque diventa un interlocutore d'affari straordinariamente importante nel momento in cui questo progetto dovesse davvero funzionare. A lasting peace will involve two states for two peoples. Israel as a Jewish state and the homeland for the Jewish people. And the state of Palestine is the homeland for the Palestinian people. Each state enjoying self-determination, mutual recognition, and peace. Il terzo pilastro di Obama, infine, per completare questo quadro di valori da una parte e di sviluppo economico dall'altra, riguarda il Medio Oriente, il rapporto fra israeliani e palestinesi, il processo di pace. Barack Obama ha dato una brutta notizia a Benjamin Netanyahu, che si incontra oggi, fra poche ore, alla Casa Bianca con Barack Obama. Gli ha detto che l'America è favorevole al rispetto dei confini del 1967, dunque dei confini che c'erano prima della guerra dei 6 giorni, nel momento in cui si dovrà negoziare la restituzione dei territori da parte di Israele. We believe the borders of Israel and Palestine should be based on the 1967 lines with mutually agreed swaps, so that secure and recognized borders are established for both states. Punto e a capo. Rilasciato l'ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, incarcerato sabato scorso, è oggi libero su cauzione, formalmente incriminato da un grand jury per 7 capi di imputazione, tra i quali violenza sessuale e sequestro di persona. Ora rischia fino a 74 anni di reclusione. Dominique Strauss-Kahn può dunque riabbracciare la famiglia dopo l'arresto, ma per farlo ha dovuto versare da un lato la cauzione di $1 milione, dall'altro fornire garanzie in deposito per altri $5 milioni e soprattutto deve portare un bracciale elettronico e restare agli arresti domiciliari in un appartamento di Manhattan affittato per l'occasione. Sarà costantemente videosorvegliato, mentre una guardia armata, che pagherà sue spese, controllerà la porta d'ingresso. Queste le condizioni per lasciare il carcere. Intanto si è aperta la battaglia per la sua successione. Infatti l'ex ministro delle finanze francese, direttore generale del Fondo Monetario, ha dunque dato le dimissioni nel corso della settimana. E qui è scattato un meccanismo che in qualche modo vuole rompere certi automatismi. Qual è l'automatismo? L'automatismo in passato è stato Banca Mondiale agli Stati Uniti, Fondo Monetario Internazionale all'Europa. Bene, l'India ha detto chiaro, è finita l'epoca del consenso che portava dunque un europeo al Fondo Monetario Internazionale. E di più, La Cina ha detto esplicitamente di volere il direttore generale. Lo ha detto attraverso un giornale, il quotidiano del popolo, che di fatto è la voce ufficiale del Partito Comunista Cinese. Staremo a vedere, ma è certo che intorno alla vicenda personale di Dominique Strauss-Kahn si innesca un discorso che è completamente diverso, che è invece legato ai nostri tempi, al cambiare, all'affermazione dei cosiddetti BRIC, di quei paesi che, diciamolo, sono stufi di restare in seconda linea sul fronte delle grandi istituzioni internazionali. Ma per sentire quello che Dominique Strauss-Kahn rappresentava per l'Europa al Fondo Monetario Internazionale, sentiamo un passaggio di intervento di Carlo Bastasin. Strauss-Kahn era certamente il riferimento pro-europeo all'interno del Fondo Monetario, ha giocato una parte attiva durante la crisi. L'esempio più evidente è quello del gennaio 2010, quando Strauss-Kahn offrì l'aiuto del Fondo Monetario, quando ancora l'Unione Europea non era del tutto convinta, disse: salveremo noi la Grecia se la Grecia chiederà aiuto. Fu un passo importante. Successivamente lui, assieme a Trichet, andarono a Berlino a convincere i gruppi parlamentari del Bundestag ad aiutare la Grecia, e lui stesso fu importante nel convincere Angela Merkel nel contribuire per dimensione al gigantesco pacchetto finanziario di aiuti approvato nel maggio 2010. Diciamo questo, il Fondo Monetario dall'inizio della crisi, in particolare quando in Europa, anche se all'esterno diciamo dell'area euro allora, in Ungheria, in Lettonia, si erano aperti i primi casi, beh, il Fondo Monetario era l'unico istituto internazionale a disporre delle capacità tecniche per intervenire nel salvataggio di paesi. Fu allora che si capì che la Commissione Europea non era tecnicamente in grado di salvare quei paesi. Ecco, diciamo, il ruolo del Fondo Monetario è stato importante. Il fatto che ci fosse un europeista, o perlomeno un personaggio di spicco nel proscenio della politica europea alla direzione generale, è stato certamente influente. E ora Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, ci fa invece un profilo di chi è candidato ora per l'Europa al ruolo che Strauss-Kahn è stato costretto a lasciare. Beh, Christine Lagarde è un personaggio che ha fatto un percorso, come dicono i francesi, sans faute, senza errori praticamente. Ha una formazione internazionale, in particolare americana, anglosassone, visto che ha lavorato a lungo per uno dei più grandi studi di avvocati d'affari del mondo, Baker McKenzie, e ha fatto il ministro dell'economia negli ultimi 4 anni in Francia, e ha fatto bene, ha gestito bene il periodo della crisi. Il suo piano di sostegno all'economia ha fruttato allo Stato francese 2,7 miliardi di interesse, è un successo a livello mondiale. È una donna di grande classe, molto riservata sulla sua vita privata, ma piacevole, con il senso della battuta, con il senso dello humor. Quindi ha, diciamo, tutte le caratteristiche sicuramente che la rendono un candidato per l'Europa di grande prestigio. Quali gli handicap però che la Lagarde potrebbe avere? Ma direi fondamentalmente uno, la vicenda Tapie, controverso, discusso, miliardario francese Bernard Tapie, nel 1993 vendette Adidas tramite il Crédit Lyonnais, e si ritenne danneggiato per l'ammontare di quella vendita, da cui un lungo contenzioso con lo Stato francese, visto che il Crédit Lyonnais era una banca pubblica. A questo lungo contenzioso la Lagarde ha deciso di porre fine nel 2008 con un arbitrato extragiudiziale in base al quale Tapie ha incassato molti soldi, nell'ordine dei 210 milioni di euro. Alcuni ritengono che sia stato un abuso d'autorità da parte della Lagarde, e c'è un ricorso pendente alla Corte di Giustizia della Repubblica. Ecco, questa è un'ombra che potrebbe effettivamente creare qualche problema alla Lagarde, ma non credo che possa essere un ostacolo decisivo sulla strada verso il Fondo Monetario. Punto e a capo. Non ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori come il matrimonio del nipote William e di Kate. Eppure la missione irlandese della sovrana Elisabetta II ha davvero scritto una pagina di storia. A mio marito si richiede di parlare in pubblico. Ricevuto. Forse dovrebbe cambiare lavoro. E se mio marito fosse il re? La regina, figlia di Giorgio VI, il re balbuziente e coraggioso, descritto nel bellissimo Il discorso del re di Tom Hooper, che tra l'altro ha assicurato a Colin Firth un Golden Globe e il premio Oscar come migliore attore, ha portato in terra d'Irlanda, oltre alla sua persona, un vero e proprio segnale di cambiamento. Insomma, l'Irlanda da terra di conquista e sottomissione a terra di dialogo. Una corona nel giardino dei ricordi, monumento ai caduti per l'indipendenza, mentre la banda nazionale intona God Save the Queen e qualche centinaio di persone protestano. 100 anni dopo l'ultimo viaggio di un sovrano inglese in terra d'Irlanda, Elisabetta II arriva a Dublino e compie il gesto più significativo e più atteso, un omaggio a chi morì per combattere l'egemonia di Londra. Dunque una visita storica che segue di un secolo quella di Giorgio V, che si presentò da sovrano in una terra che già si batteva per la liberazione. La lotta esploderà poi nel 1916 e nel 1922 si chiuderà con l'indipendenza, un conflitto che riprenderà qualche decennio più tardi con l'infinito scontro fra cattolici e repubblicani in Ulster. Uno scontro che lascia dietro di sé ancora segni evidenti. È stato trovato ed è stato disinnescato un ordigno piazzato lungo il tragitto del viaggio reale, e tanto è bastato per spingere Dublino a mettere in atto la più grande operazione antiterrorismo che si ricordi. Migliaia di uomini hanno setacciato la capitale in attesa di Elisabetta e del marito, il principe Filippo di Edimburgo, atterrati nella base militare di Baldonnel poco prima di essere ricevuti dal presidente Mary McKellessy per il via ufficiale a un appuntamento atteso da 100 anni. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Punto e a capo. Che Facebook fosse una tentazione troppo potente per consentirne l'uso anche dal PC dell'ufficio, lo hanno capito già molte amministrazioni pubbliche e aziende private che hanno pensato di oscurare il social network più popolare del mondo. Allora, Facebook in ufficio, sì o no? Questa settimana ne abbiamo parlato con il garante della privacy, Francesco Pizzetti. Ha sicuramente la possibilità di limitarne o anche vietarne l'accesso, nel senso che durante l'orario di lavoro una persona sta prestando un'attività lavorativa, se l'azienda ritiene che l'utilizzazione di questi social network non siano utili per l'azienda stessa, è ragionevole che ne possa limitare l'uso o anche vietarlo, purché adotti una policy trasparente che chiarisca ai dipendenti le condizioni di accesso o di non accesso a queste social network. Il problema credo che nascerà, è già nato e nascerà ancora più evidentemente in futuro, perché moltissime aziende ormai sono presenti sui social network. In realtà non è più un sistema di comunicazione limitato ai rapporti interpersonali, ma le aziende hanno una presenza massiccia e quindi a maggior ragione sarà necessario per ogni organizzazione aziendale un ragionamento attento. Punto e a capo. Venerdì invece a Essere Benessere si è parlato di mal di testa, un grande classico che purtroppo coinvolge moltissimi italiani. Praticare lo sport, uno sport, può essere una soluzione, un aiuto? Nicoletta Carbone ne parla con il professor Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Il cervello di chi soffre di mal di testa, in particolare di emicrania, ha delle pile particolari, efficientissime ma che perdono rapidamente la carica. E allora certi tipi di sport fatti con gradualità e con costanza possono anche migliorare la capacità delle batterie di questo neurone a tenere la carica. Ma se vengono fatte in maniera terribile, lo squascio all'ora di pranzo al posto del pasto, beh, se l'è proprio andata a cercare. Mai tirare la corda, semmai ampliare la capacità di stoccaggio dell'energia con degli sport, qualunque siano, però fatti in maniera ovviamente opportuna e sensata. Anche andare in alto, l'altitudine può scatenare una crisi, me lo scrive anche un ascoltatore, e quindi io pensavo la salita, e se la salita comporta anche uno sforzo fisico, il rischio si moltiplica. Sì, ovviamente gli sforzi in salita sono ancora maggiori, come quantità di energie che il soggetto profonde nei muscoli e conseguentemente sottrae al già malcapitato cervello. C'è da dire che quando poi l'altitudine, se è un'altitudine elevata, e magari adesso avvicinandoci alle stagione estiva c'è già chi pensa a fare belle escursioni fino a 3000 metri, se è emicranico, mette in conto il fatto che il grillo parlante, quando sente la rarefazione d'ossigeno minima, ma che c'è comunque salendo già dai 2000 metri in su, si arrabbia non poco. E quindi acclimatiamoci e cerchiamo di non fare 4 ore di passeggiata a 2500 metri il primo giorno, e semmai usare sempre il criterio della gradualità, perché con gradualità l'emicranico va anche sull'Everest. A proposito di altitudine, che dire di questo fine settimana del Giro d'Italia? Ieri il Gross Lochner, che ha portato i ciclisti della carovana a lambire la neve di maggio, oggi lo Zoncolan. Vi ricordo l'appuntamento con Tempo di Sport a partire dalle 17 con Carlo Genta, come sempre, per vedere se anche oggi Contador sarà in grado di infliggere, di segnare il giro e di appunto infliggere i distacchi pesanti ai suoi avversari. Ma ora cambiamo tema, dallo sport agli spettacoli, parliamo di piccolo e di grande schermo con Marta Cagnola, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Marta. Buongiorno Gigi, eccoci. Allora, partiamo dal piccolo schermo, si fa per dire, di questi tempi alcuni hanno televisori immensi, ma tant'è. Sgarbi era, diciamo, l'oggetto della settimana. Possiamo sentire subito un breve frammento che in qualche modo sintetizza anche come è andata. Abbiamo riottenuto la diretta, perché non si pensasse, forse è meglio la registrata, forse sarà meglio farla registrata d'ora in avanti per costruire tutto in maniera perfetta, togliere quello che non funziona, ma la diretta è un simbolo, è il simbolo della possibilità di dire senza che nessuno ti fermi. Allora Marta, sulla diretta non c'è alcun dubbio, ma l'esito non è stato positivo. Diciamo che l'esito, il dubbio è sul d'ora in avanti, perché dopo la prima puntata, questo ci tocca anche Sgarbi, prima puntata in diretta su Rai 1, un flop, una media di ascolti molto bassa, l'8%, per capirci la metà delle persone che erano sintonizzate in quel momento su Rai 3 per chi l'ha visto. Quindi programma cancellato subito la mattina dopo la prima puntata, il programma probabilmente tornerà, ma sicuramente non in prima serata e probabilmente nemmeno in diretta. Ecco, io devo dire, l'ho seguito, ero curioso, ho avvertito, vabbè, Sgarbi è un personaggio, lo conosciamo, è inutile stare qui a fare un dibattito su di lui. I temi erano molto alti, ma tutt'altro che privi di interesse. Si parlava di ambiente, di cultura. Certo, il mio pensiero un po' maligno è da ascoltatore, da osservatore della TV, è che lui volasse effettivamente troppo alto e magari in maniera confusa. Lui l'ha riconosciuto, non era quello che il pubblico si aspettava e non era il programma adatto, non erano i contenuti adatti per una trasmissione di prima serata. Non che la cultura non possa trovare spazio in televisione, però lui stesso l'ha detto, lo sentiremo, la terza pagina ormai neanche nei quotidiani sta più in terza pagina. Forse la cultura deve passare in televisione, magari in orari diversi, in formati diversi. Questo programma non era adatto alla prima serata. Insomma, vita breve per questo programma televisivo. L'altro grande tema della settimana è naturalmente il Festival del Cinema di Cannes. Si è parlato molto di frasi assolutamente sbagliate del regista Lars von Trier, di un assurdo peraltro ragionamento su Adolf Hitler e le sue vicinanze con i cattivi. Ecco, questo ha un po' dominato la scena, ma c'è dell'altro. Sì, questo ha dominato la scena e ha spostato i riflettori anche sul film di Lars von Trier, che era stato molto applaudito e un po' contestato. Sono stati tanti i film che hanno un po' diviso in questo Festival di Cannes. Noi domani sera scopriremo chi avrà la Palma d'Oro. Ci sono molti film che fortunatamente vedremo in Italia, perché il mercato, che è quello che poi distingue Cannes da Venezia e fa sì che Cannes sia poi il festival più importante al mondo, ha premiato molti film e quindi molti li vedremo finalmente anche in Italia. Un film ha diviso molto, Melancolia di Lars von Trier, un altro film ha diviso molto, e questo già lo vediamo al cinema, è quello di Terrence Malick, un altro dei più applauditi e dei più contestati allo stesso tempo. Come avrai sentito e come ci aspettavamo, Terrence Malick non ha parlato del suo film, non si è presentato in conferenza stampa, è il regista più misterioso che esista, Terrence Malick, perché non si fa riprendere, non si fa fotografare. Qualche anno fa l'abbiamo incontrato al Festival di Roma, ma le telecamere e le macchine fotografiche non erano ammesse all'incontro, quindi nessuno ha potuto ritrarre il suo aspetto fisico. Noi abbiamo potuto registrare la sua voce ma non tramandare l'immagine. Non si è presentato a spiegare il suo film, lo ha fatto Brad Pitt. Noi abbiamo un breve estratto di quello che ha raccontato Brad Pitt. His idea is, even though he gave us, he handed us a very dense script, he was more interested in catching what was happening on the day. He's like a guy standing there with a big butterfly net and waiting for that moment of truth to go by. So the kids themselves were not given the script. Brad Pitt si è dovuto trovare a spiegare come ha lavorato con Terrence Malick, ma anche che tipo è Terrence Malick, perché tutti volevano sapere cosa pensa, come lavora, ma addirittura com'è la sua vita quotidiana. E Brad Pitt ha spiegato la magia di Terrence Malick, che consiste nel fatto di aver delle sceneggiature molto dense, un dense script, lui l'ha definito, ma assolutamente la volontà di cogliere il momento e di creare da un materiale molto preciso in realtà un film molto fantasioso, perché lui è come un ragazzino con il retino che aspetta di catturare la farfalla mentre gli attori sono sul set. Straordinaria poesia. Insomma, per un Terrence Malick misterioso che non parla, un Lars von Trier che parla troppo, tutto questo è Cannes. Domani sera sapremo l'esito, i premi, Marta Cagnola ci aggiornerà come sempre negli appuntamenti dedicati negli spettacoli durante GR24. Grazie Marta, grazie anche a Fabio Cantadori questa mattina in regia, un ottimo fine settimana a tutti voi. We'll be right back.